pace lo trovo. E non ho da far guerra, e temo e spero. Ed ardo è solo un ghiaccio, e volo sopra il cielo e giaccio in terra. Stringo e tutto il mondo abbraccio. Ligo pace, morte e vita. Questo stato